Perfetto Giorno di Simone Spezia. Referendum per l'autonomia in Lombardia, affluenza al 38,5%, polemiche sul sistema di voto, in Veneto superato il quorum e vittoria a valanga dei sì. Salvini, nessun problema per la linea della Lega, il ministro Martina, non discuteremo di fisco e Zaia replica, si occupi di agricoltura. Arrestati due sindaci in Puglia, tangenti ed escort in cambio di appalti, secondo l'accusa, in manette altre 10 persone. Condannato a morte in Iran il ricercatore che lavorò 2 anni in Italia, accusato di essere una spia, mobilitazione internazionale per lui. Forte vento a Roma, crolli di alberi, a Prati uno si abbatte su un taxi, non grave l'autista, interrotto un tratto della Roma Lido. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati all'Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta oggi in assistenza in redazione Laura Fagin, Roberta Frisani in regia per una trasmissione autonomista, per così dire. Oggi ne parleremo parecchio, con il nostro taglio, con le nostre caratteristiche, andremo dai sindaci a sentire come se la passano, parleremo anche col presidente della provincia di Belluno che oggi ha votato, anzi ieri ha votato per l'autonomia dal Veneto, cioè per l'autonomia tout court, quindi all'interno del Veneto c'è una provincia che ha votato per la sua specifica autonomia. Iniziamo dalla cronaca generale, a partire dalla Lombardia, perché le ultime notizie arrivano proprio da là e riguardano l'affluenza e soprattutto il sistema di voto. Sentiamo. Hanno votato in Lombardia il 38,5% degli aventi diritto e di questi il 95,29% ha detto sì. Si distingue Bergamo tra le province con maggiore affluenza, qui infatti siamo al 47,37%. Milano, come da attese, si attesta tra le meno attive con un 31,20% di votanti. Il dato arriva alle 12, con grandissimo ritardo. Il voto elettronico, sperimentato per la prima volta in Italia, in Lombardia, ha molte criticità. Soprattutto nello spoglio. Lo sanno bene quelli che hanno trascorso una nottata infernale nei seggi. E intanto ci si organizza con una partita di pallone. Racconta così in un video un presidente di seggio mentre scorrono azioni calcistiche con palla di spugna nei corridoi di una scuola. Fuori ormai note, le chiavette USB estratte dai tablet a chiusura del voto ormai da ore sono state inviate tramite PONI all'ufficio centrale della regione. Lì i funzionari le esaminano una per una procedura necessaria perché le macchine per il voto elettronico non sono collegate a internet. Risultato? Alle 3 ci sono ancora persone nei seggi. Slitta intanto di ora in ora la conferenza stampa del presidente della regione Lombardia Maroni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso spostiamoci in Veneto, andiamo dalla nostra inviata Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, un risultato quello in Veneto che qui non ha stupito nessuno. Ieri c'erano code ai seggi, una affluenza massiccia soprattutto nelle province di Treviso, Vicenza e Padova, poi si è arrivati a un'affluenza del 58%, quindi superato il quorum, e sia l'autonomia al 98%. Tiepida solo la provincia di Rovigo, dove comunque si è sfiorato il 50%. Picchi in alcuni comuni, come Busto del Grappa, dove i sì sono stati l'80%. A Treviso per il sì un po' tutti, sindaci, PD, le Procchi, addirittura la Federazione degli Islamici Veneti. La regione a questo punto spera di andare a Roma per trattare, Zaia lo ha già detto, chiederà che si apra un tavolo sulle 23 materie che vengano trattenuti il 9/10 delle tasse, ma sentiamolo. A Trento Bolzano è una nostra quasi ossessione, nel senso che è un mood in Veneto. Dico che comunque non c'è nulla di mummificato, ci andrebbe bene ovviamente questo modello, l'abbiamo detto, è un nostro obiettivo, però dico anche che chiunque dichiara, magari prima di dichiarare si lega bene alla Costituzione, perché vedo anche dichiarazioni da parte di illustri esponenti del governo che si capisce con chiarezza che forse qualcuno ha letto la sintesi del Bignami più che il libro originale. Ora bisognerà vedere se Zaia saprà capitalizzare la forte investitura popolare. Il PD regionale, che pure ha sostenuto il sì al referendum, lo aspetta alla prova dei fatti. Secondo il PD regionale è anche un successo del centro-sinistra, ma secondo un esponente storico del PD, Cacciari, questo in realtà non è stato un referendum sull'autonomia della regione, ma una mossa elettorale per le ambizioni del governatore, che ora potrebbe candidarsi a premier. E per ora è tutto, a te la linea. Grazie dunque anche a Valentina Furlanetto per queste cronache dal Veneto. Veniamo alle reazioni nazionali. All'indomani dei referendum in Lombardia e Veneto la Lega Nord esulta. Meglio di così non poteva andare, commenta il leader del Carroccio Salvini, che chiede di avviare subito un confronto con il governo Gentiloni, e agli alleati di centrodestra ribadisce che ora il tema dell'autonomia dovrà essere centrale. È stata una lezione di democrazia per tutta Europa. Abbiamo ancora negli occhi gli scontri, ahimè, ancora in corso fra Barcellona e Madrid. Abbiamo scelto una via regolare, pacifica, legittima, costituzionale, riconosciuta. Dal governo il ministro dell'agricoltura Martina apre al confronto, il vice segretario del PD avverte però che la trattativa non potrà riguardare le entrate fiscali che le due regioni chiedono di trattenere. Nel centrodestra Berlusconi parla di risultato positivo che non mette in discussione i rapporti di forza nella coalizione. Resta critica invece la leader di Fratelli d'Italia, Meloni, secondo cui i referendum non sono stati un plebiscito e le riforme vanno fatte assieme senza mettere in discussione l'unità nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E all'interno della storia di questi due referendum c'è la storia di un altro referendum più piccolo per richiedere l'autonomia, per diventare una provincia autonoma sostanzialmente. È quello, la vicenda della provincia di Belluno. Siamo in linea con il presidente della provincia, che è anche sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Buongiorno Padrin, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Innanzitutto ci dia l'affluenza e i dati da voi, come sono andate le cose? Allora, noi abbiamo avuto 109.000 elettori su un totale di 165.000, cui bisognerebbe però aggiungere i 44.000 residenti all'estero, perché noi abbiamo anche questo problema, che il 23% degli elettori sono residenti all'estero. Quindi se scorporiamo questo cospicuo numero arriviamo al 66%, se lo conteggiamo siamo al 52%. E comunque il quorum c'è. Esatto. Il voto è stato a valanga per il sì, immagino. Il 98,37% per la precisione. Percentuali parallele a quelle del voto veneto per l'autonomia, più in generale veneto, certo, per l'autonomia. Voi a cosa puntate? Un modello bolzano, un modello Trento, qualcosa di questo genere? Beh, quello è un sogno, penso, irrealizzabile. Dobbiamo colmare comunque questo gap che ci vede schiacciati proprio come provincia in mezzo alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione Friuli Venezia Giulia. Per quello noi abbiamo chiesto che ci vengano riconosciuta la nostra specificità di provincia interamente montana e tutta una serie di competenze e risorse aggiuntive che in questo momento già la legge le prevede. Quindi, per capire meglio, Padrin, dal punto di vista politico succede che Zaia va a Roma col mandato popolare per richiedere maggiore autonomia e lei va a Venezia con mandato popolare per richiedere maggiore autonomia dal Veneto, ho capito? Non basta, no, noi andiamo anche noi a Roma, perché noi abbiamo da richiedere un po' di autonomia dal Veneto, ma anche tanta dallo Stato, e vogliamo soprattutto entrare in quello che è il negoziato che la Regione intavolerà allo Stato. Cioè noi abbiamo la legge Delrio prevede che per le province interamente montane venga riconosciuta una specificità su alcune competenze, te ne dico una, la cura strategica del territorio, sì, che significa tutto e niente, però significa ad esempio mobilità, fiabilità, attività produttive, e quindi noi attraverso questo mandato popolare dovremo andare proprio a intavolare una trattativa a nostra volta proprio con il governo per ottenere questo. Grazie Roberto Padrin, in bocca al lupo per la sua trattativa, presidente della provincia di Belluno, sindaco di Longarone, per essere stato con noi. Veniamo alla cronaca, iniziando dalla Puglia, dove ci sono stati arresti anche di amministratori locali. Danaro in cambio di appalti per la gestione dei rifiuti, ma anche serate in compagnia di escort, finanziamento illecito ai partiti, falso e favoreggiamento. 12 arresti fra Bari e Brindisi nell'inchiesta dei carabinieri per reati contro la pubblica amministrazione. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere ai domiciliari riguardano tra gli altri due sindaci, uno di Tor Chiarolo e l'altro di Villa Castelli, Nicola Serinelli e Vito Antonio Caliandro nel Brindisino, e due vice sindaci, uno di Poggio Orsini e l'altro di Tor Chiarolo, coinvolti anche vari dirigenti di uffici tecnici comunali ed il direttore dell'azienda dei servizi ecologici di Manfredonia. L'inchiesta è nata nel 2014 da alcuni accertamenti avviati dai carabinieri su presunte irregolarità nell'assegnazione di appalti per la gestione dei rifiuti. L'ipotesi dell'indagine è che gli amministratori pubblici in associazione tra loro avrebbero alterato le gare dei rispettivi comuni per favorire una ditta di raccolta della spazzatura con sede a Carovigno. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. Una storia che sta facendo discutere, ha fatto una diretta Facebook invece di soccorrere una persona che aveva avuto un incidente. Nella notte tra sabato e domenica a Riccione, un ragazzo di 24 anni, Simone Ugolini, muore dopo uno schianto in motorino contro un albero. E mentre lui è a terra ancora in fin di vita, c'è qualcuno che invece di chiamare i soccorsi prende lo smartphone, si connette con Facebook e inizia a trasmettere la diretta dell'agonia scrivendo «Chi mi segue chiami aiuto» e poi aggiunge «C'è sangue, speriamo che si salvi». L'autore del video si chiama Andrea Speziali, ha 29 anni, è un esperto d'arte ed è stato candidato alle ultime elezioni comunali. Ora sui social è bersagliato da critiche e insulti. Speziali adesso si difende così: mi hanno detto che avevano già chiamato i soccorsi, e afferma di essere rimasto sconvolto, sotto shock, e di essersi messo a filmare col telefono per condividere il suo dolore. Non cercavo lo scoop, aggiunge, ora ho capito di aver sbagliato e chiedo scusa a tutti. Intanto la polizia stradale insieme a quella postale ha già sequestrato il video e le foto incriminate e chiuso il profilo Facebook della vittima. Tutto il materiale finirà in procura e il magistrato dovrà decidere se aprire un'inchiesta a carico di Andrea Speziali. Le ipotesi di reato vanno dal procurato allarme alla diffamazione degli operatori del soccorso, alla violazione della privacy dei parenti del giovane morto nell'incidente. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo sulla cronaca e andiamo a Roma. Il vento sta creando molti problemi. Nuovo crollo di alberi a Roma. In mattinata un grosso pino è caduto in centro, nel quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano, coinvolgendo tre auto in transito. Ad avere la peggio è stato un taxi. L'albero infatti si è schiantato sull'auto bianca. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. I medici del pronto soccorso stanno verificando se il tassista ha subito lesioni più gravi. A bordo del taxi viaggiavano anche due clienti. Problemi poi sulla linea ferroviaria Roma-Ostia. Un albero è infatti caduto sui binari all'altezza di Tor di Valle e il servizio è stato interrotto nel tratto tra Magliana e Acilia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È stato condannato a morte per spionaggio il medico iraniano Ahmadreza Jalali, aveva vissuto a lungo in Italia. La battaglia prosegue, dice Amnesty International. Dall'Iran, Ahmadreza Jalali era partito nel 2009, prima destinazione Svezia, seconda Novara, al centro di ricerca interdipartimentale in medicina dei disastri, dove era rimasto due anni prima di tornare a Stoccolma con la moglie e i due figli. Specializzato in interventi di emergenza, quindi durante calamità e disastri, Jalali non era in fuga dal suo paese, anzi tornava regolarmente in Iran per incontri e convegni, ed è stato in una di queste occasioni che nel 2016 è stato arrestato con l'accusa di spionaggio. Dapprima la famiglia ha taciuto, impaurita, ma quando si è cominciata a profilare la possibilità di una condanna a morte ha parlato ed è partita la mobilitazione internazionale. La stessa che ripartirà ora che la sentenza è stata emessa, assicura Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. È inaccettabile che un ricercatore, per il mero fatto di aver frequentato ambienti universitari e scientifici all'estero, possa essere sospettato, accusato e condannato per spionaggio. Faremo di tutto per evitare che la condanna sia confermata in appello e poi eseguita. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo a parlare di sport, del fine settimana sportivo, del fine settimana calcistico che mi sembra, Dario Ricci, un po' all'insegna delle milanesi, no? L'Inter che ferma il Napoli da una parte, il Milan in una crisi nera per tutta una serie di motivi, no? Sì, Milano sicuramente protagonista con questi due volti diametralmente diversi e inaspettati, perché ci si aspettava tutt'altro campionato, non tanto dall'Inter, che comunque poi ha fatto una campagna acquisti, diciamo, risparmiosa ma ben calibrata, almeno a mio parere, ma soprattutto chiaramente dal Milan. Abbiamo visto anche un'ottima Lazio con Ciro Immobile, che continua a segnare, questa è un'ottima notizia anche per la nazionale, tra l'altro 13 gol e lui rigori li segna, a dispetto finora di Dybala, che era stato il grande protagonista dell'inizio di stagione. Abbiamo visto anche una Juve schiaccia Sassi, magari non perfetta, ma che ha avuto una reazione d'orgoglio che secondo me inciderà in qualche modo su questo campionato, perché in 10 contro l'Udinese ha trovato prima il 3-2 e poi ha dilagato fino al 6-2. Insomma, vuol dire che... Sì, non mi ricordo quale giocatore della Juve nei giorni scorsi diceva la Juve è un diesel e a un certo punto partirà, forse sì. I segnali si iniziano a intravedere. Sì, sì, no? Insomma, sicuramente è una prestazione che può lasciare il segno, proprio perché c'è stata anche una risposta caratteriale molto forte a fronte di un periodo che invece aveva visto diverse oscillazioni, no? Nell'ambito, per quanto riguarda il rendimento. Poi, come sempre, come ogni lunedì, il grande protagonista è il VAR, no? Siamo ormai entrati siamo nella generazione VAR Sport, perché pensavamo che la moviola in campo, avrebbe eliminato molte chiacchiere, invece evidentemente non è così. È chiaro, ieri Montella un po' acceso le polveri dopo l'espulsione di Bonucci, a mio modo di vedere sacrosanta, però ha posto un problema che già era emerso nelle scorse settimane. Molti episodi rivisti alla TV sono veramente più difficili per alcuni aspetti da interpretare rispetto a quella che è la sensazione del campo, al di là del fatto che è uno strumento positivo. Sembra un po' che gli arbitri si adagino un po' troppo sul strumento televisivo, sulla TV, e nel dubbio preferiscano non decidere. Invece alcune situazioni inevitabilmente, è vero, ha ragione Montella, il campo le restituisce diversamente. Non è il caso questo dell'espulsione di Bonucci, però è un ragionamento generale che, se vogliamo, poi riguarda un po' tutte le tecnologie. Sì, e poi un'ultima cosa, consideriamo che forse si poteva intervenire meglio e con più profondità sul regolamento, agevolando il compito dell'arbitro, magari riducendo negli ambiti di discrezionalità, piuttosto che introdurre un elemento che cambia un po' lo spirito del gioco, perché esiste solo al massimo livello. Il calcio che giocano i tuoi bambini non è quello della Serie A, e questo ovviamente non mi piace. Grazie Dario Ricci per questo aggiornamento. Ci sarà poi tutti convocati a partire dalle 14, dove ovviamente questi argomenti, come prevedibile, saranno al centro. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ricominciamo a parlare di autonomia. Ebbene, abbiamo sentito molte voci, anche dei presidenti di regione, Maroni e Zaia. La realtà è che questo referendum è stato appoggiato da tantissimi sindaci anche del centro-sinistra, nonostante in parte il centro ossia Roma fosse contrario. Parleremo con due di loro tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo anche in diretta video. Se ci volete vedere potete scriverci e commentare anche là. A proposito di commenti, prima di iniziare il nostro giro d'Italia, qualche ascoltatore che ci scrive a proposito dell'intervista che abbiamo fatto col presidente della provincia di Belluno. Dicevamo, Zaia va a trattare a Roma, il presidente della provincia di Belluno tratterà con Zaia per ottenere a sua volta l'autonomia. Un ascoltatore accusa sempre la solita ironia. Non c'è alcuna ironia, è semplicemente un elemento divertente. Poi sarà importante per la provincia di Belluno tanto quanto per il Veneto. All'ascoltatore che dice: ma le province non sono state abolite? No, non sono state abolite. So che su questo c'è un po' di confusione, la legge Del Rio le ha svuotate un po' di competenze, un po' di denari, si aspettava il referendum costituzionale per abolirle, poi il referendum costituzionale, come ben sapete, non è passato e quindi le province rimangono. Come si diceva prima del traffico, ci sono una serie di sui territori, no? Ci sono molti sindaci, anche di centrosinistra, che hanno sostenuto questi referendum per l'autonomia. Questo anche per rifugire un po' dall'interpretazione politicistica che viene data in queste ore da questi referendum, ossia l'idea che sia solamente una vittoria di una determinata parte politica. In realtà le pulsioni autonomiste in Veneto esistono da anni e sono da sempre molto forti, sono molto forti in alcune parti della Lombardia. Abbiamo deciso di sentire due sindaci che attivamente hanno fatto anche campagna per questo referendum. Iniziamo da Achille Variati, che è il sindaco di Vicenza. Buongiorno Variati. Grazie, buongiorno. C'è chi sta dando in queste ore una lettura molto politica di questo referendum, dicendo insomma è un bel colpo per la Lega. In realtà questo referendum forse rappresenta qualcos'altro, Variati? Sì, ovviamente politica vuol dire occuparsi della polis, della comunità, quindi certamente c'è la parte politica, però deve essere una politica in questo caso con la P maiuscola. Perché se il governatore Zaia la riportasse come un risultato di parte, diciamo leghista o dintorni, sbaglierebbe, e non penso che farà questo errore. È stato raccolto un sentimento popolare con una grande trasversalità qui nel Veneto, e quei numeri dimostrano questa trasversalità. Ora, quando il popolo però si pronuncia, in tempi peraltro di rapporto non splendido con la politica, malgrado questo, quando il popolo si esprime vuol dire che sta dicendo qualcosa, e quindi la politica regionale e nazionale ovviamente se ne deve far carico. Lei ha visto che già dal governo esponenti del suo partito, penso a Maurizio Martina, sono stati piuttosto duri, hanno detto sì, trattiamo su tutto ma non trattiamo sul fisco, che però Variati è una delle partite principali, uno dei motivi principali per i quali uno chiede l'autonomia. Sì, certo, ovviamente lo Stato che deve guardare al complesso del paese, d'altra parte la Corte Costituzionale ha dato l'ok a questo referendum in un'ottica di paese, non in un'ottica di divisione del paese. È ovvio che un governo, questo, il governo che verrà, deve cercare di dare delle risposte che siano equilibrate, cioè devono spostare potere a livello regionale / locale nell'ottica che questo spostamento nell'ottica dell'autonomia serva a spendere meglio e spendere meno, attenzione, non a spendere di più, spendere meglio, spendere meno, però deve avere un grande equilibrio, perché il governo deve essere pronto a dare dell'autonomia al Veneto, ma quell'autonomia deve essere pronto il governo a darlo alla Calabria, all'Umbria piuttosto che al Lazio, cioè a tutto il paese. Quindi siamo alla vigilia forse di una pagina molto interessante di corresponsabilità. È un po' come dice Zaia, il Big Bang, questo referendum veneto, ossia l'inizio di un movimento che potrebbe riguardare potenzialmente tutte le regioni italiane? Sì, potenzialmente, come dice lei, potrebbe proprio essere questo. Se invece questo voto popolare verrà direttamente o indirettamente, domani o dopodomani, strumentalizzato dal livello regionale o ignorato, non capito, ironizzato dal governo, allora questa cosa abortirebbe in un'ottica di aumento progressivo della sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. Se invece si faranno le cose con equilibri, con saggezza e con tanto lavoro, perché autonomia e responsabilità, quindi bisogna lavorare. Allora, io la ringrazio, grazie ad Achille Variati, sindaco di Vicenza, per averci dato la sua idea, e abbiamo deciso di sentire un altro sindaco di centrosinistra, proprio a dimostrazione del fatto, come capite, che non è stato un referendum politico questo, ma un referendum che ha rappresentato, a differenza di, no, da qualche parte l'abbiamo visto, e ce lo diceva anche Variati, da qualche parte si ironizza, si scherza su questo desiderio autonomista di alcune regioni, del Veneto in particolare, ma anche della Lombardia. In realtà c'è poco da ironizzare, perché il voto c'è stato ed è inequivocabile. Davide Galimberti, sindaco di Varese, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie. Anche lei era a favore del sì. Come legge questo voto, posto che l'affluenza ovviamente in Lombardia è stata minore, siamo al 38,5%, ci sono stati tutti i problemi che conosciamo e che abbiamo raccontato, però anche là quel 38% ha votato in maniera plebiscitaria ed è un segnale importante, no? Sì, sicuramente non paragonato al Veneto, sicuramente il risultato, l'affluenza, la partecipazione in Lombardia è molto più negativo, anche secondo me per un aspetto che è importante, che mentre in Veneto c'è stata una costruzione e quindi c'è stata una larga partecipazione ovviamente di tutte le forze, ma soprattutto le forze economiche, sociali, quindi abbiamo visto anche delle dichiarazioni a favore di ampi insomma, spazi della società civile, in Lombardia è stata percepita come una mossa più elettoralistica. Più elettorale e politica. E quindi esatto. L'appoggio al referendum è stato un po' più frammentario, dice lei, dal punto di vista delle forze, sì, o meglio, delle forze che erano in campo. È stato questo elemento del fatto che si volesse in qualche modo strumentalizzare politicamente ha raffreddato qualche soggetto che invece sui principi dell'autonomia è assolutamente convinto. Cioè io penso che ci fosse un po' di tiepidezza sul tema referendum, quindi strumento, sì, ma non assolutamente sui temi dell'autonomia. Sul tema dell'autonomia. Adesso Galimberti, immagino da voi sostegno a Maroni o a chi gli succederà evidentemente per la trattativa con Roma. Assolutamente. Noi, di qualunque colore politico sia, dico. Con Giorgio Gori, con Beppe Sale e tanti altri sindaci capoluogo e non solo della Lombardia, da mesi abbiamo avviato un percorso per far sì che questo momento si riempisse di contenuti, perché siamo assolutamente convinti che una regione avanzata con punto di riferimento non solo dell'Italia ma dell'intera Europa potesse effettivamente avere dei margini di autonomia con relative sì. risorse. Galimberti, mi faccia chiudere una domanda, siamo quasi in chiusura, solo questo. Oggi tra l'altro è lombardo lui, un esponente importante del Partito Democratico come Maurizio Martina dice si tratta ma non si tratta sul fisco, e però il fisco è un capitolo fondamentale in questa vicenda dell'autonomia. Voi come rispondete dal territorio? Nel momento in cui si fa riferimento anche a questioni, a materie, ci deve essere anche qualche partita economica e quindi maggiori risorse. Per quello che è importante che venga elaborata dal territorio, dalle diverse realtà territoriali della Lombardia, una proposta che deve essere credibile. Non può essere uno slogan sul residuo fiscale che rende inaccettabile la proposta. Quindi l'invito è ovviamente a tutte le forze politiche ad abbandonare alcuni slogan e invece mettersi al lavoro, mi riferisco in particolare agli slogan del passato, della devolution, sì, insomma della indipendenza, la possibilità che la Lombardia diventi il Trentino Alto Adige. Se si abbandona quel tipo di approccio, secondo me si fa un grande lavoro a vantaggio dell'economia e del territorio lombardo. Grazie Davide Galimberti, sindaco di Varese. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per fare il punto sui mercati, come sempre. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: referendum per l'autonomia in Lombardia, affluenza al 38,5%, in Veneto superato il quorum e vittoria a valanga dei sì. Salvini dice nessun problema per la linea della Lega. Il ministro Martina: non discuteremo di fisco. E Zaia replica a Martina: si occupi di agricoltura. Arrestati due sindaci in Puglia, tangenti ed escort in cambio di appalti, secondo l'accusa in manette altre 10 persone. Notizie appena battute dalle agenzie: ci sono perquisizioni in corso sull'imbarcazione di Save the Children impegnata nell'operazione di soccorso ai migranti nel Mediterraneo centrale, perquisizione disposta dalla procura di Trapani che da tempo ha aperto un fascicolo sull'operato delle ONG. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Giusto il tempo di dare la linea al nostro Mario Platero con America 24.